molto tempo non scrivevo più. Sai che un vagabondo oggi è qui e domani là, già 10 anni fa io vi scrivevo di, per una volta ancora riprendo il mio cammino. E andai per una volta ancora riprendo il mio cammino. Padre, da molto tempo non scrivevo più, gli anni sono passati ma io non sono cambiato. Forse qualcuno potrà chiamarmi avventuriero, fino alla fine andrò dietro le mie verità. Sì, nei ride, ed andai fino alla fine andrò. Cercata, ma questa volta forse verrà. Vorrei farvi capire che io vi ho molto amato. Per voi non era facile, ma oggi credetemi. Da molto tempo non scrivevo più, mi sento un poco stanco, mi sosterrà la mia volontà. Abbraccio tutti voi, un bacio a tutti voi e ricordo.